Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani a Salva Danaio, buona giornata a tutti. Lo sapete che in questo periodo la nostra trasmissione ha un appuntamento più o meno fisso, la dichiarazione dei redditi. Siamo nel pieno della nostra denuncia dei redditi, siamo alle prese con la compilazione o del 730 o del modello unico, siamo alle prese con la raccolta della documentazione necessaria per riempire o da soli tutte le caselline di questi moduli, oppure raccogliamo la documentazione per consegnarla al commercialista, se è lui che deve compilarcela e trasmetterla poi appunto all'amministrazione fiscale, qualora questa dichiarazione fosse più complessa del solito. Quest'anno abbiamo una novità, non ce ne sono moltissime, però ce n'è una piuttosto interessante. C'è stata la proroga da parte dell'amministrazione fiscale per il pagamento dell'acconto sull'unico persone fisiche. La consegna ai centri di assistenza fiscale del modello 730, anziché alla scadenza del 31 maggio, potrà avvenire entro il 20 giugno, mentre i versamenti di unico persona fisica slittano di 20 giorni, e cioè alle 6 luglio. Per il modello 730 relativo al periodo 2010 la scadenza era stata posticipata al 16 maggio dal precedente 2 maggio. Queste sono appunto alcune delle novità, se ce ne sono altre oggi ce le faremo spiegare anche da due persone che ne sanno molto. Intanto da Marco Peruzzi del Sole 24 Ore, che ne scrive in continuazione. Marco, bentornato a Salva Danaio. Ti invito, grazie, sempre per questi argomenti un po' duri da digerire, insomma dobbiamo trovare un sistema per invitarti anche per parlare di qualcosa di più divertente. Si diverte invece moltissimo con questi argomenti Tonino Morina, firma storica del gruppo degli esperti fiscali del Sole 24 Ore. Morina, buongiorno e bentornata a Salva Danaio, buona giornata. Salve Deborah, ciao Marco, buongiorno a tutti. Allora, vi ricordo intanto che fino a pochissimi giorni fa era in edicola con il Sole 24 Ore, da acquistare appunto separatamente però al quotidiano, la guida completa al modello 730 per una dichiarazione senza errori. Adesso Marco, se non sbaglio, va in edicola la guida al modello unico. Unico, da domani guida a unico 2011. Benissimo, comunque anche lì ci sono tutte le tutto ciò che bisogna sapere appunto per una corretta compilazione della nostra denuncia dei redditi. E allora 800 24 00 24, il numero verde per interagire con noi, per farci tutte le domande che ancora non siete riusciti a risolvere sull'argomento di questa mattina, oppure scriveteci al 349-238-6666 o all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. Prima di partire con il 730 con il modello unico, però diamo un'occhiata alla borsa. Sono giornate piuttosto interessanti quelle di questi giorni, in un mercato che ha dovuto affrontare anche lo scandalo che ha coinvolto il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale, Dominique Strauss-Kahn, e proprio sull'incertezza relativamente alla guida adesso di questo prestigiosissimo organismo internazionale, ma anche e soprattutto sul ruolo che il Fondo Monetario ha per il nuovo pacchetto di aiuti finanziari da stanziare per la Grecia. Tutti questi fattori avevano contribuito ieri a deprimere di nuovo i listini. Stamattina le borse europee erano partite di nuovo con il segno meno, poi adesso stanno cambiando direzione, con l'unica eccezione di Francoforte, che ancora perde lo 0,59%, è arrivata a perdere quasi un punto. Sulla Germania pesa l'indicatore ZEV sulle aspettative economiche tedesche, che nell'ultima rilevazione di maggio si è praticamente dimezzato rispetto ad aprile. Questo indice è sceso a 3,1 punti dai 7,6 del mese precedente. Gli analisti si aspettavano un calo, ma forse non così dirompente come quello che è stato registrato, e di conseguenza appunto oggi la borsa tedesca ne risente di più. Mentre Parigi, abbiamo adesso su Parigi un rialzo dello 0,12%, ruota sulla parità Londra, Milano più 0,29% sul FTSE MIB. Milano fino a poco fa è arrivata a guadagnare anche mezzo punto, adesso rallenta anche Piazza Affari. Sono però in evidente recupero i titoli dell'ambito bancario, che sulla scia appunto della crisi greca hanno continuato a navigare nell'incertezza negli ultimi giorni. Le banche sono ovviamente le società quotate più interessate alle vicissitudini greche, di conseguenza sulle indicazioni che arrivano da quel fronte si muovono. Oggi il Banco Popolare guida i rialzi con un più 2,52%, UbiBanca più 1,50%, Unicredit in rialzo di un punto, abbiamo anche Saipem in rialzo di un punto, più 0,8% per Pirelli, per A2A, per Generali e per Enel Green Power. In calo invece Azimut, perde un punto e mezzo con Tenaris, Campari meno 1,22%, Impregilo meno 1,18%, in difficoltà di nuovo oggi la galassia Fiat, Fiat meno 0,7%, Xor meno 0,9%, dopo i dati sulle immatricolazioni in Europa, che sono stati di nuovo piuttosto negativi per quello che riguarda il mese di aprile. Complessivamente in tutto il mercato europeo l'auto è scesa del 3,8% in termini di vendite e di immatricolazioni. Il petrolio è abbastanza tranquillo, è a $97 al barile, stamattina almeno questa era la quotazione sul mercato asiatico. Per quello che riguarda il greggio americano, il WTI, mentre il Brent è a 110,54. Per la borsa è tutto, adesso andiamo al 7.30. Tempi più lunghi quest'anno per presentare la dichiarazione dei redditi. Il 7.30 cancella il 31 maggio dal suo calendario. Per chi non avesse già consegnato il modello entro il 16 maggio, c'è tempo fino al 20 giugno per farlo, a un CAF o a un professionista abilitato. Slittamento di 20 giorni, al 6 luglio, anche per le presentazioni e i versamenti di Unico persone fisiche. Anche quest'anno il modello 7.30 presenta delle novità. Innanzitutto, la presenza del campo relativo alla cedolare secca sugli affitti degli immobili situati nella provincia dell'Aquila. L'introduzione di un credito di imposta previsto a seguito del reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione e di uno relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali. Confermate invece altre agevolazioni, come quelle del 36% e del 55%, nel caso di ristrutturazioni edilizie e di interventi finalizzati a risparmio energetico, ma anche la detrazione sul trattamento economico accessorio per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso per un importo massimo di 149,5 euro. Sono invece scomparsi il bonus arredi, le detrazioni per le spese di autoaggiornamento dei docenti e quelle per l'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. 800240024 è il numero verde per le vostre domande. Siamo già praticamente intasati al centralino per le numerose telefonate che ci state facendo, ma vedo anche tantissimi messaggi al 349-238-6666. Antonio da Torino si lamenta subito, tutti gli anni ci sono delle sorprese, io aggiungo negative, perché quella che ci solleva Antonio appunto non è stata positiva per i contribuenti. Quest'anno non ho potuto detrarre l'abbonamento annuale delle spese che sostenevo per il trasporto pubblico, ma ce ne sono anche tante altre, così come probabilmente si sarà anche ampliata la rosa delle possibilità per dedurre o detrarre dalla nostra dichiarazione dei redditi. Comunque, Tonino, Morina, comincio subito con lei. Questo slittamento di cui parlavamo nella nostra scheda è stato attribuito all'introduzione della cedolare secca sugli affitti, ma è realmente così? Ma in effetti, per quanto riguarda la cedolare secca, praticamente tutte le persone fisiche beneficiano di questa proroga, quindi in fin dei conti, tra le cose brutte, dobbiamo dire che c'è una cosa positiva, che si può pagare con più tranquillità, quindi tutte le persone fisiche coinvolte o meno dalla cedolare secca beneficiano di questo spostamento per i pagamenti, quindi hanno tempo fino al 6 luglio senza lo 0,40% o possono pagare, per chi fa l'unico, dal 7 luglio al 5 agosto con lo 0,40% in più. Ma non è solo l'effetto cedolare secca o tassa piatta, che dir si voglia, per chi ha affitti con la nuova tassa, ma è anche l'effetto degli studi di settore, nel senso che dovevano essere approvati gli studi di settore entro il mese di maggio, ma comunque devono essere approvati anche a marzo e così via, insomma le solite così difficoltà per monitorare, verificare e approvare gli studi di settore hanno comportato questa ulteriore proroga, quindi il beneficio riguarda indistintamente tutte le persone fisiche, siano esse soggetti o meno alla cedolare secca o agli studi di settore. Particolarmente la proroga dei versamenti al 6 luglio senza 40% dal 7 luglio al 5 agosto riguarda tutti i soggetti interessati dagli studi di settore e quindi tutte le imprese, i professionisti che hanno a che fare con lo strumento informatico studi di settore che si chiama GERICO, gestione ricavi o compensi. Perché GERICO potrebbe sembrare qualche altra cosa, in effetti GERICO italiano niente politica estera, niente politica estera a Salvadanaio. Grazie per la precisazione, Torino. C'è stata anche un'altra motivazione che ha comportato appunto lo slittamento dei 7.30, qualche CUD da parte di alcune aziende consegnate in ritardo, Marco Peruzzi. Allora, siamo alle solite comunque, voglio dire, tutti gli anni si assiste a una proroga. Quest'anno c'è da dire che è molto più ampia, perché l'anno scorso, come diceva Tonino, la proroga ha riguardato principalmente, anzi esclusivamente, i soggetti cui si applicano gli studi di settore. Quest'anno invece tutte le persone fisiche, i motivi sono di vario tipo e di vario genere. Alcuni li abbiamo detti, altri anche il problema della consegna del CUD. C'è stato poi tutto un problema che era in riferimento alla tassazione degli straordinari dell'anno scorso, e tutti gli anni comunque ci sono numerose novità, magari non grandissime come quest'anno, non è che la dichiarazione dei redditi sia cambiata molto rispetto all'anno scorso, e tuttavia degli interventi spicci di qua e di là fanno sì che poi si arrivi al momento della dichiarazione dei redditi un pochino con il fiato corto, e ciò comporta quindi la necessità di uno slittamento. Slittamento che avviene anche quest'anno, diciamo che è più aria per i contribuenti, per chi deve recarsi dal CAF oppure dal professionista abilitato, piuttosto che per chi lo consegna in azienda. Non cambiano poi tutte le conseguenze per il contribuente, che in questo caso, cioè nel caso di 730, principalmente è un lavoratore dipendente oppure un pensionato. E infatti, allora, grazie per avermi dato questo assist, perché adesso devo già andare in pausa, ma nella seconda parte della trasmissione cominceremo appunto magari proprio aprendo Salvadanaio, spiegando che differenza c'è fra il 730 e l'unico, chi compila un modulo piuttosto che l'altro, quindi quali vantaggi dà la compilazione di un modulo piuttosto che dell'altro, e poi andremo anche subito a tutte le domande numerosissime che ci stanno arrivando da parte degli ascoltatori, quindi anche se siamo già, come dire, in procinto di dover effettuare la consegna all'intermediario o al CAF o al sostituto d'imposta appunto della modulistica, vedo che alcuni ancora hanno molti quesiti in sospeso. 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Ci sentiamo tra pochissimo. Allora, siamo nel pieno della stagione della dichiarazione dei redditi, quindi oggi siamo ritornati su questo argomento più o meno volentieri, insomma non è un appuntamento che aspettiamo trepidanti nel corso dell'anno, però è il periodo in cui dobbiamo mettere la testa in tutte le spese che abbiamo sostenuto lo scorso anno e che magari quest'anno possono contribuire a renderci il pagamento delle tasse un po' più leggero. E allora stamattina magari possiamo proprio intanto focalizzare la nostra attenzione su tutti gli sconti possibili dalla dichiarazione dei redditi. E poi Marco Peruzzi, volevo dire che è proprio il momento del ritrovare la documentazione delle spese. Diciamo che avremmo dovuto farlo scorso, già tra febbraio e marzo, sarebbe stato meglio mettersi alla caccia adesso. Andrebbe fatto, anche perché poi tutta questa documentazione, poi Tonino Morina lo dirà con più precisione rispetto a me, va mantenuta, va conservata ulteriormente per anche 6 anni. Cioè, credo fino al 2015, esatto, per esempio, per la quindi dichiarazione. Quindi una spesa sostenuta quest'anno, nel gennaio dello scorso anno, ad arrivare al dicembre del 2015, siamo a 6 anni. Diciamo che ci serve, sia se compiliamo noi la nostra dichiarazione dei redditi, se è semplice, sia se ci aiuta un intermediario fiscale piuttosto che un commercialista, appunto dobbiamo consegnarla loro ovviamente per la compilazione, dopodiché all'amministrazione fiscale non va consegnata, Tonino Morina, però noi dobbiamo tenerla. Esatto, e oltretutto c'è un discorso importante per chi ha benefici fiscali del 36% per quanto riguarda i lavori di manutenzione, o del 55% per quanto riguarda risparmio energetico. Attenzione, la documentazione va conservata fino al 35 del quarto anno successivo a quello in cui si beneficia di una quota di detrazione, per cui addirittura, per assurdo, se uno fa una detrazione del 36% che dura 10 anni, dobbiamo aggiungere 10 più i 4 anni successivi al termine di presentazione della dichiarazione, perché significa che uno si porta un beneficio fiscale magari di una detrazione del 36% fatta 7 anni fa, chiaramente deve considerare tutta la documentazione di 7 anni fa più altri 4 anni a seguire, sono 11 anni, o possono essere, diciamo, più anni o meno anni in base a quanto lui beneficia di questo sconto fiscale, perché il fisco si fida, ma non tanto. Ma certo, ma poi voglio dire, possono esserci anche delle contestazioni fatte per qualsiasi ragione, e quindi dobbiamo essere nelle condizioni, dobbiamo essere in grado di poter dimostrare al fisco che ci siamo comportati in buona fede, quindi che tutte le operazioni le abbiamo svolte correttamente. Allora, prima di cominciare con le domande degli ascoltatori, Tonino, un'altra domanda: che differenza c'è fra il 730 e il modello unico, e a chi conviene presentare un modello piuttosto che l'altro? A quale contribuente? Ma soprattutto il modello 730 è il cosiddetto modello semplice, quello più amato dagli italiani, dipendenti e pensionati in particolare, perché consente di avere subito i soldi da parte del fisco nelle buste paga di luglio se uno è dipendente, o negli stipendi di pensione di agosto o settembre per chi è pensionato. Per cui il 730, scelto da oltre 17 milioni di contribuenti, è considerato il modello più semplice per questo motivo, perché dipendenti e pensionati hanno la possibilità di essere agevolati in caso di rimborsi, e nel caso di pagamenti magari ci pensa sempre il datore di lavoro o l'ente pensionistico a fare le trattenute e pagamenti. Quindi il cosiddetto sostituto d'imposta. Esatto, il modello semplice, che per il quale se uno deve pagare ci pensa il sostituto d'imposta, se uno deve avere i soldi indietro, mentre per l'unico deve aspettare 3-4 anni se va bene, per il 730 riceve subito i soldi a distanza di pochi mesi. Molto bene, allora cominciamo con le domande degli ascoltatori, cominciando chi era il primo in attesa. Cominciamo con il primo della lista che vedo sul nostro display, Antonio da Foggia. Buongiorno, buona giornata Antonio. Buongiorno a lei. Posso fare la domanda? Certamente, al dottore? Certamente. Allora, volevo sapere, dottor Morina, se i corsi estivi di lingue per sostenuto per un familiare a carico per mio figlio di 18 anni della scuola dell'obbligo liceo scientifico a Foggia può essere dedotto dalla famiglia. Io, avendo pagato questo corso con regolare bonifico bancario, e quindi con una fattura che ho anche nelle mani, quitanzata col bonifico, la ringrazio. Grazie Antonio, grazie a lei. Allora qua entriamo subito nel merito delle cosiddette spese per la famiglia, di tutti i cosiddetti oneri detraibili. So che ce ne sono diversi, ci sono le spese di istruzione secondaria, universitaria, di specializzazione, ci sono le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido. Forse questo è un corso che però non può essere frutto di risparmio fiscale per il nostro ascoltatore. Esatto. Tonino. Esatto, hai ragione. Peraltro la risposta al nostro ascoltatore la darà anche il Sole 24 Ore, negativa purtroppo, del 23 maggio 2011, perché lunedì prossimo, proprio su questo quesito che ha fatto il nostro ascoltatore, c'è una risposta del Sole 24 Ore. Questi corsi estivi o di altro tipo, che non sono chiaramente considerate spese scolastiche, universitarie e quant'altro, purtroppo non beneficiano dello sconto fiscale, che invece riguarda le spese scolastiche o le spese per corsi di specializzazione post universitaria e quant'altro, che possono essere fruite. Quindi lo sconto per quanto riguarda la spesa sostenuta per la specializzazione inglese estiva purtroppo non beneficia di alcun. Ecco, magari però conviene, Tonino, specificare meglio qual è la rosa di queste spese scolastiche, perché anche Silvia ci ha scritto al 349-238-6666 dicendoci: la mia è un'osservazione, ma quando ci faranno scaricare le spese scolastiche, appunto, parlando in termini molto più ampi? Perché lei ci racconta: spendo circa 1.300 euro l'anno per il trasporto e i libri del liceo, e anche Silvia non può essere accontentata nella sua richiesta. Naturalmente c'è molta attenzione, dobbiamo tenere presente che le condizioni per fruire di questi benefici fiscali sono espressamente indicate sia nel 730 e sia per quanto riguarda il modello unico. Naturalmente sono molto rigide le norme da applicare, per esempio è possibile avere spese per canoni di locazione da studente universitario fuori sede. C'è una piccola detrazione fiscale che può essere per chi è iscritto per esempio in un corso di laurea presso un'università situata in un comune diverso da quello di residenza, si ha diritto a una detrazione del 19% su un canone massimo non superiore a 2.333 euro. Però l'università deve essere ad un tot di chilometri dalla città di origine. Esatto, esatto. Ci sono molte condizioni che si devono tenere presenti per avere addirittura, per furia di questa detrazione, giustamente, visto che hai dato già l'imbeccata, l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 km dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. Faccio un esempio: io che sono a Francofonte, in provincia di Siracusa, mia figlia studia all'università di Catania, poiché l'università di Catania è vero che è in una provincia diversa, ma io a 40 km non posso beneficiare di alcuna detrazione. Quindi... è una follia, ma è la norma che lo sta. È la norma. Vabbè, allora. Purtroppo norma, mi diceva Silvio Moroni, il grande maestro, giusta o sbagliata, va rispettata. Va rispettata. Allora, ci è sembrato così interessante focalizzare particolarmente l'attenzione su tutto ciò che attiene alle spese che le famiglie sostengono per mantenere gli studi i propri ragazzi, perché sono appunto proprio i problemi che le famiglie probabilmente sentono di più. C'è anche lo sconto sulle attività sportive praticate dai nostri figli, non dai nostri, perché io non ne ho, comunque vale lo stesso. Magari poi ci ritorniamo. Adesso invece andrei ad un altro tema molto attuale con la domanda di Marco da Milano. Marco. Buongiorno, penso di essere in linea. Dunque, io volevo chiedere una cosa, che se il versamento, come si fa a optare in fase di dichiarazione per il versamento della cedolare, per distinguerla dall'acconto IRPEF, perché naturalmente c'è l'uno e l'altro, oppure se si può far finta di niente e rinviare il tutto alla prossima dichiarazione, cioè all'unico 2012, e in quella fase fare le varie compensazioni tra le varie tassazioni, ecco. Allora Marco, dunque, intanto la questione della cedolare secca, che è una novità di quest'anno, dalle domande tantissime che vedo arrivare da parte dei nostri ascoltatori, noi ci siamo già andati con Salvadanaio su questo argomento, ritengo che occorrerà tornarci al più presto, magari ci rifacciamo una puntata a partire proprio dalla prossima settimana. D'altronde il tema della casa è quello che vi interessa di più. Riusciamo intanto a dare una prima indicazione al nostro ascoltatore, Tonino? Sì, per gli affitti abitativi è bene che la scelta, se il nostro ascoltatore vuole fare, la faccia subito. Già peraltro, se fa la dichiarazione con il modello unico, beneficia del spostamento in avanti al 6 luglio senza 0,40%, quindi è opportuno che la scelta la faccia subito. Poi in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo dimostrerà con gli acconti fatti, che ricordiamo che l'acconto della tassa piatta o cedolare secca per quest'anno è dovuta nella misura dell'85% per l'anno 2011. Quindi se la scelta l'ha fatta per ragioni di convenienza, perché la tassa piatta, la cedolare secca, gli costa meno dell'IRPEF, è bene che faccia gli acconti distinti tra IRPEF per quella che deve e cedolare secca per quella che è l'85% per l'anno 2011. Allora, quindi speriamo di aver accontentato anche Giancarlo, che ci aveva scritto di trattare le varie implicazioni a seconda delle situazioni della cedolare secca. Guardi, lo rinviamo l'argomento, oggi parliamo più in termini generali dell'appuntamento con la dichiarazione dei redditi di quest'anno. Questo è davvero un tema che richiede, ritengo, una puntata a sé. 800 24 00 24, numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Sono pronti poi Luca da Bologna e Carla da Padova, a tra pochissimo. Allora, stavamo ragionando con Marco Peruzzi a microfoni spenti sul fatto che è una novità sicuramente molto importante, perché ha l'obiettivo fondamentale di sgominare tutto il nero che gravita intorno al mercato delle locazioni nel nostro paese. Però forse c'è un eccesso di attenzione da parte di molti contribuenti nel rapporto tra la nuova cedolare secca sugli affitti e il 7.30 di quest'anno, Marco. Sì, secondo me sì, io non vorrei sbagliare, adesso meno male che c'è Tonino Morina che mi correggerà. Che è lì, che è pronto a bacchettarci sulle però dita. Però in realtà, allora, sicuramente c'è un'implicazione in unico per chi fa la dichiarazione dei redditi, e unico, l'ha detto prima anche Tonino, una dichiarazione un pochino più complessa di quello che è il 730. Il 730 è più semplice, è quasi una dichiarazione dei redditi basilare, no? Era nato proprio per, lo dice il nome stesso, doveva semplificare il vecchio 740, infatti era il 730. Però voglio dire, con il 730 in realtà io non faccio nessuna opzione per l'anno in corso, cioè io pago le tasse del 2010. Ecco, però per chi ha percepito lo scorso anno nei redditi da canone di locazione, comunque quest'anno deve scegliere. Sì, ma quindi non, forse nel 730. Non nel 730, però si preoccupa magari di capire l'impatto. Tonino, Morina, secondo lei qual è la ragione di tanta attenzione su questo tema quest'anno, in questo momento? A parte la novità, che è comunque anche un pochino complicata, perché non è facile fare una valutazione di convenienza se optare per un regime piuttosto che per un altro, perché abbiamo spiegato anche nelle puntate che abbiamo dedicato all'argomento che dipende dal tipo di canone che si fa sottoscrivere all'inquilino, dalla zona in cui si abita e da tanti altri aspetti. Ma ha ragione Marco nel dire che si è creata molta attenzione su questa cedolare secca, che è da vedere con molta attenzione, quindi rimane fermo che chi non sceglie quest'anno può scegliere poi l'anno prossimo, attenzione. Per cui fare una scelta più meditata, naturalmente se i contribuenti, che sono molto attenti a questa situazione, ritengono di avere grossi benefici, naturalmente che la scelta la facciano subito pagando gli acconti della cedolare secca in sede diversamente di unico 2011, ma naturalmente l'attenzione che è stata prestata a questa novità è stata secondo me esagerata, è un po' come... Si parla spesso di abuso di diritto, ma indubbiamente a livello nazionale l'abuso di diritto interessa le grandi società. Ma secondo me... La cedolare secca interessa chi ha immobili e chi ha redditi elevati. Infatti. E tutti quelli che comunque questi redditi li hanno percepiti in nero, quindi il tema è quello anche, Tonino. Ritengo che se l'hanno percepito in nero devono stare attenti. Esatto, devono venire allo scoperto, e questo è il punto. Brava, brava, perché negli ultimi anni il fisco è molto attento a queste situazioni e non è giusto, non è etico, non è serio evadere. Infatti, anche perché c'è tutto un meccanismo per il quale praticamente si rende attivo protagonista anche della denuncia delle situazioni di nero l'inquilino che abita in questa abitazione. È caduto Tonino? Va bene, adesso lo recuperiamo. Allora magari facciamo una cosa, lasciamo un po' da parte la cedolare secca, la rimandiamo alla prossima settimana, andiamo agli altri temi della dichiarazione dei redditi di quest'anno. Allora sento Carla da Padova, perché ci fa affrontare un tema che poi mi permette di toccare un altro argomento con Marco Peruzzi, che è tutto ciò che attiene alle spese per la salute. Carla da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno Deborah, buongiorno. Senta una cortesia, io ieri sono andata a fare il 730, in pratica avevo degli scontrini con scritto parlanti col codice fiscale, sì, col codice dell'articolo, alcuni avevano scritto dispositivo medico e la signorina del 730 ha avuto difficoltà a farmeli rientrare perché non avevo la ricetta. Ora, da quello che so, che ho visto io ieri sul vostro sito, dispositivo medico si intendono non i farmaci ma gli articoli, quali possono essere le attrezzature mediche che uno può comprare e deve essere marcato C. Ma farmaci, io non ho presente che debbano avere la scritta dispositivo medico e la ricetta. Se mi date qualche delucidazione. Mamma mia, sentiamo un po'. Marco, grazie Carla, grazie mille. Marco sgomita perché sa la risposta. No, non allora, so, è una cosa bellissima questa qua, perché è uscita recentissimamente. Ah, sul ecco, finire quindi della settimana ha ragione prossima. Intanto la consulente dello sportello fiscale. Sì. Cioè, nel senso che intanto si parla di dispositivi medici, che cosa sono. E che cosa vuol dire? Esatto, lo sanno per esempio, solo loro. Sono cerotti, siringhe, per esempio i termometri. Ecco, questi sono i dispositivi medici. Ah, però. La spesa per questi. Scusa, mi sono fatto una ferita, mi daresti un dispositivo medico per la ferita? Esattamente. Allora, la detrazione IRPEF, ha spiegato l'Agenzia delle Entrate in una circolare di giovedì, comunque ha spiegato che sono spetta su queste spese la detrazione del 19% a condizione che il contribuente provi che si tratta di un dispositivo a marcatura CE. Dove si trova questa marcatura CE? Si troverà nella confezione? Esattamente. Allora che significa? Che devo portare al CAF anche la scatola della siringa o dei cerotti? Secondo me sì. Anche su questo mi piacerebbe tantissimo sentire il parere di Tonino Morina. Purtroppo sai che non riusciamo a ripescarlo, se fosse Marco. Aspetta. Perché effettivamente è così. Cioè praticamente possiamo dire che... la circolare ha introdotto, questa circolare di cui stiamo parlando, delle novità, perché finora era esclusa la possibilità di detrarre le spese sostenute per l'acquisto di questi dispositivi medici, a condizione che dallo scontrino o dalla fattura del farmacista, risulti che chi ha sostenuto la spesa abbia questo che la confezione, che l'apparecchiatura, la strumentazione che abbia ha comprato questa abbia questa marcatura. E allora lo scontrino che sia parlante che in tanti completamente casi non esiste. Io ad esempio adesso lo vedo qua, oppure dovrebbe andare, che ne so, nel sito del produttore di quel determinato ma non tutti ce l'hanno. Allora, non tutti hanno, abbiamo ripescato Tonino Morina, questo è un bel tema, peraltro, con questo argomento. È un allargamento, ma poi non lo rendono fruibile. Tonino ha sentito il tema sul quale ci stavamo allegramente intrattenendo, i dispositivi medici. Un'ascoltatrice ci ha raccontato che, pur avendo lo scontrino parlante, che quindi per l'acquisto di questi materiali, insomma, ammettiamo che siano delle siringhe, ha portato tutta la certificazione ovviamente all'intermediario fiscale, quindi al centro di assistenza fiscale, ma la signorina dello sportello le ha detto: faccio fatica ad abbatterle queste spese perché sono dei dispositivi medici per i quali sono necessarie delle informazioni aggiuntive. Mi spiegava adesso Marco Peruzzi il fatto che siano abbiano questa marcatura CE. Ma di che stiamo parlando? Purtroppo è così, nel senso che ultimamente, negli ultimi anni, l'amministrazione finanziaria sulle spese sanitarie ha voluto fare un più rigido, perché fino a qualche anno fa, fino a quando non c'è stato l'introduzione del cosiddetto scontrino parlante, nel senso che c'è il codice fiscale, c'è la marcatura e c'è quant'altro, c'erano gli scontrini ambulanti sostanzialmente, che passavano da contribuente a contribuente e non c'era la possibilità da parte dell'amministrazione finanziaria di fare i controlli, quindi i furbetti dello scontrino evadevano, cioè, portavano dei costi che non erano dovuti, perché se uno portava 1.000 euro, non so, di spese farmaceutiche fatte dal nonno, le spese farmaceutiche del nonno fino a 3-4 anni fa passavano per tutta la famiglia. Ma se io ho utilizzato delle siringhe, come faccio a dimostrare che per avere un risparmio fiscale da quella spesa? Risulta regolarmente dallo scontrino. Risulta. E allora la nostra ascoltatrice, che le è stata contestata dall'operatrice dello sportello, le facciamo scrivere. Facciamo Carla, facciamo una cosa, Carla, ci scriva e le facciamo rispondere con un parere autorevolissimo da Tonino Morina, lo porterà magari al centro di assistenza fiscale. Purtroppo Salvadanaio è terminato. C'era Luca da Bologna che voleva raccontarci una cosa sulla quale avrei voluto volentieri sentire i nostri interlocutori, perché ha pagato delle tasse versate con ritardo, cioè ha pagato degli interessi, anche delle multe, e voleva sapere se dal 7.30 poteva abbattere queste spese. Mi sembra un esercizio di fantasia fiscale, Luca, un po' esagerato. Non credo che il fisco permetta anche questo. Comunque, grazie a tutti per essere stati con noi, in particolar modo ovviamente a Tonino Marina e Marco Peruzzi. Sul sito del Sole 24 Ore trovate tante informazioni sulla guida della dichiarazione dei redditi, appunto, di quest'anno, e prometto che settimana prossima ritorniamo anche sulla cedolare secca. Buona giornata a tutti.